Smart City, la città intelligente. Buonasera da Maurizio Melis. C'è un suono che voglio farvi sentire prima di tutto questa sera. Eccolo. Ebbene, è il suono del sonar di un sottomarino, lo avrete sentito in un migliaio di film. Il sottomarino emette una sorta di potente beep e poi ne registra l'eco. A raccoglierlo, insieme anche a tutti gli altri suoni ambientali provenienti dal mare e dagli altri battelli, c'è una schiera di idrofoni, che sono degli speciali microfoni subacquei molto sensibili. Ebbene, questa sera vi parliamo proprio di idrofoni, solo che nel nostro caso servono non a scovare i sottomarini nemici, ma le perdite di una rete idrica. L'esperimento è in corso a Riolo Terme, in provincia di Ravenna, e Chiara Albicocco ne ha parlato con Claudio Anzalone, responsabile ricerca e sviluppo di ERA, che è la multi-utility emiliana che prima in Italia ha deciso di installare questo sistema. Sentiamo. Come ERA siamo impegnati da tanto tempo sul tema della ricerca e riduzione delle perdite idriche. Ci siamo orientati già da tempo nell'utilizzo di tecnologie innovative per la localizzazione o quantomeno prelocalizzazione automatica delle perdite, a cui ora di recente abbiamo aggiunto la valutazione di un sistema che invece intende consentire una prelocalizzazione automatica invece delle perdite sulla rete, proprio sulla rete distributrice. Allora, ci spieghi un po' meglio che cosa significa. Cioè, avete installato questi sensori, intanto il comune di Riolo credo che sia un piccolo comune, quindi una fase sperimentale. È un piccolo comune qui della prima collina, zona Faenza, ecco, per intenderci, abbiamo scelto il comune di Riolo Terme perché la rete idrica di questo comune, come dire, aveva già dato segnali, diciamo, di indici di perdita leggermente superiori rispetto a quelli medi, e quindi, diciamo, una rete che necessita di un monitoraggio un po' più attento. Questo è un sistema che dovrebbe consentire, uso il condizionale perché, diciamo, l'esperienza è un esperimento, le valutazioni ovviamente sono un po' ancora tutto da fare, dovrebbe consentire appunto una prelocalizzazione automatica di perdite sulla rete distributrice. Cosa vuol dire? Vuol dire che un sistema fisso di sensori dislocati sulla rete consente appunto di inviare delle segnalazioni di anomalia connesse a una probabile perdita sulla rete, indicando anche qual è, come dire, l'area geografica in maniera abbastanza puntuale nella quale quella perdita probabilmente si sta manifestando. Quindi in tempo reale, diciamo, arrivano in centrale le indicazioni che in quel punto c'è una falla, diciamo così, c'è un problema. È proprio così. Ok, e come funzionano questi sensori? Questi sensori si basano sulla rilevazione vibroacustica, che sono, diciamo, delle rilevazioni molto classiche per quello che riguarda i sistemi di ricerca delle perdite. Qui la novità, se si può considerare tale, è quella che questi sensori intanto sono degli idrofoni, quindi sono dei microfoni che sono posti a diretto contatto con l'acqua delle condotte, sì. E questo, come dire, comporta come vantaggio il fatto di avere la possibilità di un ascolto più ampio. Questo perché l'acqua in sé è un buon conduttore di onde sonore. Diciamo, possiamo dire che funziona un po' come uno stetoscopio, cioè vengono rilevate le variazioni, le anomalie nella propagazione delle onde sonore, e nel momento appunto in cui c'è un'anomalia, tac, allora lì c'è qualcosa che non va. Possiamo permetterci questa analogia, nel senso che il sistema che legge in continuo questi dati sostanzialmente fa e tiene aggiornata quella che è, diciamo, un campo di vibrazione che viene considerato normale, di base, che ovviamente all'inizio, quando si fa la prima installazione, viene verificato proprio per vedere che non ci siano delle perdite reali in quel momento. Certo. A quel punto, diciamo, il sistema di rilevazione confronta quello che viene rilevato con il passo temporale predefinito rispetto a questa situazione di bianco di standard, e tutte quelle che sono le anomalie vengono segnalate. Ecco, la sensibilità di questo strumento ci permette di rilevare perdite molto considerevoli persistenti o anche quelle piccole perdite magari dovute appunto all'usura delle condutture? Allora, tenga presente che appunto è un sistema di prelocalizzazione di perdite sulla rete di distribuzione, quindi rileva, diciamo, delle situazioni anche abbastanza piccole, ma non troppo piccole, cioè nel senso che le perdite, quelle di minore entità, ma spesso anche, diciamo, più numerose, quelle sono quelle che si verificano negli allacciamenti d'utenza, che però non è l'obiettivo. Quelle un po' più domestiche, invece qua parliamo, esatto, di, diciamo, del sistema di gestione. Genere, esatto, si parla di perdite che cominciano ad avere, diciamo, una loro consistenza, una loro importanza. Peraltro questo strumento, diciamo questo sistema, ecco, più che questo strumento, ovviamente va a rilevare quelle che sono le anomalie che spesso sono messe in evidenza in alcune ore, per esempio in quelle notturne tipicamente. E come ci diceva, è un esperimento, quindi state vedendo quali sono i risultati, appunto se ci sono degli aspetti favorevoli, e qualora funzionasse potrebbe essere impiegata anche nella rete idrica di città più grosse? Ma dal punto di vista teorico assolutamente sì, noi ci siamo imbattuti, diciamo, in questo sistema valutandone tanti, sistema che in questo momento vanta, diciamo, un numero di installazioni già abbastanza consistente in Svizzera. La casa produttrice, diciamo, di questo sistema è una casa svizzera, e questa è la prima installazione in Italia, e noi l'abbiamo fatta con il duplice scopo: uno, di verificarne l'efficacia, cioè se effettivamente chiaramente si funziona, cioè che il numero di falsi positivi sia basso, e l'altro ovviamente anche una valutazione in termini economici, perché non le nascondo, diciamo, che il sistema dal punto di vista almeno iniziale non è un sistema economicissimo, per cui bisognerà, come dire, valutarne effettivamente il rapporto costi-benefici e vedere, diciamo, quanto merita, diciamo così, un'applicazione diffusa o almeno, diciamo, riservata a casistiche particolari. Ci fermiamo qui, appuntamento a lunedì.